Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Buona domenica, signori miei, eccoci di nuovo in diretta, sono le 14:35 minuti e 49 secondi, una nuova puntata di Voice Anatomy sta per entrare e sta entrando nelle vostre case. Come sempre cominciamo ricordando che data è oggi. Oggi 6 novembre, ma il 6 novembre del 1925 nasceva a Roma il più grande regista televisivo, teatrale, di sceneggiati vivente. Perché, signori, Antonello Falqui è qui. Domenica è sempre domenica. Antonello, pronto? Pronto. Auguri. Grazie, caro. Ma che bella cosa, che meraviglia. Io non posso leggere tutto il curriculum, Antonello, perché altrimenti finirebbero le 3 ore di trasmissione. Sì. E allora ricordiamo Canzonissima, Mille Luci, cioè qualsiasi cosa. Studio 1, la biblioteca di, con il quartetto Cetra, sì. Ma insomma il mondo anche teatrale, il varietà, insomma grazie a te magari si tornasse in quel periodo meraviglioso. Sì. Com'era? Come si lavorava, Antonello? Si lavorava bene. C'era tempo per lavorare. Si lavorava bene, davano anche il tempo per lavorare, oggi non lo danno più quel tempo, quindi... Assomiglia tanto anche al nostro lavoro, al doppiaggio in sala, ormai ti danno il lunedì il film e il venerdì deve uscire nelle sale, per cui rischi anche la qualità ovviamente. In 2 o 3 giorni non si può fare niente. No, voi quanto, per il balletto per esempio, avevate del tempo, no? Per girarlo. C'eravamo una settimana, perché poi erano dirette in Studio 1, certo. Quindi una settimana, cioè 6 giorni, perché la domenica poi era di riposo. Certo. Quanti anni hai fatto il musichiere fino alla fine, fino a quando il povero Mario Riva ci ha abbandonato in quella maniera pazzesca? Sì, anzi, ero io lì anche a quel festival del musichiere dove cadde Riva. All'Arena di Verona? All'Arena di Verona, ero io il regista. Sì, perché fino alla fine era il 1960, vero? L'anno... Sì. Ma fu una cosa veramente tragica, incredibile. In diretta lui entrò e cadde in questa buca non segnalata dietro le quinte. Ma non morì per quello, morì per delle complicazioni al polmone. Sì, per la botta che ha ricevuto, immagino. Però, forse sì. Lo ricordo con grande affetto. Chi non ricorda Mario Riva? Assolutamente. Però Antonello è bellissimo, 91 anni, ha una voce da bambino. Noi che facciamo Voice Anatomy, devo dire che la tua voce è di un 35enne scarso. Grazie. Ma anche tutto il resto. Dove si fa? Cosa prendi? Ecco, dacci una dritta, Antonello. Dove ti servi? Qual è la farmacia? Qual è il supermercato? Che zona stai? Dove sto ai Parioli, sto a via Panama, quindi sto ai Parioli, vicino a Piazza Ungheria. Per cui, insomma, Roma. Centro, Roma. Per cui l'aria è quella che rispetta. Cosa mangi, Antonello? Cosa non mangi? Cosa non mangio? Perché a questo punto è il segreto, dobbiamo capire. No, per esempio oggi ho mangiato solo un po' di marmellata. Ecco. Ci sono giovedì e la domenica mangio solo marmellata. Bene. Allora prendete appunti, ragazzi. Beh, io sono sempre dell'idea che certe volte chi ti dice una cosa tu la fai te e io vado al bagno tutto il giorno, magari, non lo so. A te fa molto bene. Marmellata a quale gusto? Ma in genere castagne, per cui marron glacé eccetera, sì. Va bene, questo è il segreto di Antonello Falqui. Sì. Antonello, è stato un vero piacere. Io ti ho cercato stamattina, ti ho disturbato in questa giornata di festa in tutto e per tutto. No, grazie, ringrazio anzi. Ma no, è un piacere, vorrei urlarlo al mondo intero. Noi siamo oggi, grazie a quello che ci avete raccontato voi e ci avete spiegato voi, soprattutto il modo professionale, il modo come l'avete portata avanti, veramente io i brividi non trovo neanche le parole, non le trovo perché sono veramente emozionato nell'ascoltarti. Va bene. Niente, ti abbraccio forte, Antonello. Grazie. Tantissimo. Grazie Pino, grazie. Ma con grande, grande affetto, credo che tutta l'Italia si unisca. Tu ci hai messo davanti a quell'affare che non era un elettrodomestico, ma era veramente qualcosa di più che un televisore che oggi guardi in maniera distratta. Tu sei riuscito a mettere davanti lì i genitori, i nonni, i bambini, tutti insieme ed eravamo abbracciati

Tu non hai nessuna parente, no? Mamma Lucia non era una doppiatrice, no, no. Papà? No, no, no, io nonna mi portava da piccolissimo sui set e facevo delle cose, ho fatto Vix Vaporub, facevo il bambino, ho fatto l'Ape Regina, Fellini 8 e mezzo con mio fratello. Ma l'hai fatto come attore? Sì, ma erano bambini che correvano, andavano, certo. Facevano. Vabbè. Io mi ricordo ancora il profumo di questa signora, profumo di questa donna meravigliosa che faceva mia mamma, e mi metteva il Vix Vaporub sul petto, era un bambino moribondo, la sera, e la mattina saltavo in braccio a questa donna perché ero guarito, perché il Vix Vaporub guariva. Va bene, adesso non vogliamo fare pubblicità, sono come la Coca-Cola. In anni, esatto. Ancora mi ricordo questa donna, e quindi insomma, voglio dire, l'odore, e non era mamma, insomma, no, no, era non una mamma raccomandato, poverella. Lei pure lo faceva per passione, lo faceva così per ingannare. Ma non devi spiegarlo, si sente, e la tua storia ti racconta. Siamo arrivati anche alla fine del penultimo blocco insieme all'amico Massimo Corvo. Passeremo gli ultimi 10 minuti con lui, gli ultimi 10 minuti per quanto riguarda questa trasmissione, ovviamente, per oggi. Oggi, esatto. Come quelli che è stata l'ultima foto, Pino? No, l'ultima no, amore mio, speriamo di no. A tra pochissimo, Voice Anatomy e Massimo Corvo. Voice Anatomy. Ed ecco che la voce di Christian Jansante, voce ufficiale di Radio 24, ripresenta questo blocco insieme a Massimo Corvo. Nel frattempo ci ha raggiunti anche questo grande youtuber, non è qui in studio, starà dopo con noi, ormai non è soltanto uno youtuber, nasce lì, Sebastian Gazzarrini con 2 Z, 2 R, 2 N, 2 I, eccetera, questo pazzo che canta addosso alla gente, si è fatto milioni di follower, forse vogliono menare, ma io lo domanderò dopo, più che si è levato i baffi per non farsi riconoscere. Poi vabbè, farà tante altre cose, poi sentiremo tra pochissimo l'amico Rodolfo Laganà che sta per andare in scena poi oggi pomeriggio al Teatro Tirso di Roma, eccetera, eccetera. Senti amico mio, tanti ci domandano com'è la giornata tipo di un doppiatore, non è difficile, sveglia alle 7:30 e vabbè. Sì, caffeuccio. Sì, la giornata tipo di un doppiatore non è niente di particolare. Ti alzi la mattina, dipende con quale mezzo raggiungi il posto di lavoro. Se sei lucido, indovini anche lo stabilimento e l'orario. Che non è quello da fare bagno, ovviamente. Esatto. Stabilimento che se capita, porca miseria, dove andare? E magari devi attraversare tutta Roma, perché nella tua testa, considerando che ormai i turni neanche un Pony Express c'ha le chiamate come ci abbiamo noi. Esatto. Perché devi andare tra 10 minuti, devi andare tra... C'è il doppio turno. Quindi pure si va anche un po' in confusione, a voglia avere un'agenda davanti agli occhi, insomma, si sono fa... 3 turni, il turno di doppiaggio sono dalle 9 dalle a mezzogiorno, dalle 12, dalle 13:30 alle 16:30 e 30 con le e poi dalle 16:30 uno con la macchina del tempo si sposta dalle 16:30 e appare nel terzo turno da un'altra parte. 16:30 19:30, sì, quella è una cosa impossibile, se c'è nello stesso stabilimento va bene. Turno straordinario 19:30 22:30, quello è il turno straordinario, non si fa tempo a consegnare turno della notte. Però purtroppo, ecco, la giornata tipo di un doppiatore di una volta, qualora tu fossi un single, una persona insomma senza legami, tanti anni fa il doppiatore andava al Legio e si trovava vicino magari una doppiatrice, sì, perché delle scene dove parlano un attore e un'attrice si facevano insieme. Certo, tu e Trinity magari potevano, esatto, doppiare insieme. Esattissimo. E quindi, invece adesso tu vai lì e non trovi nessuno. Sì. Sei sempre solo, così non puoi parlare di una tua del sogno che hai fatto, no, la notte. È successo qualcosa, magari hai litigato con qualcuno per la strada, non lo puoi dire a nessuno. No, da solo. Stai lì solo come un cane, pillola rossa. Esatto, esatto. Ma questo che dici? E parli da solo perché si lavora in colonne separate per risparmiare tempo, risparmiare denaro, correre, anticipare i tempi, arrivare sempre prima. Io dico che tra un po' si andrà in sala di doppiaggio mentre stanno pensando i film in America, per dirne una, o si, no? Doppia in diretta, sì, mentre no, uno va al cinema, alle urcine fanno i fratelli Tchaikovsky lì, Tchaikovsky, dice che stanno pensando un film, presto andiamo in sala allora subito, cominciamo. Sì, ma che dobbiamo dire? Non lo so, e allora sì, però ci avvantaggiamo, ecco, insomma c'è un po' di questa e frenesia. E poi il film non lo vediamo prima, bisogna, no, dirlo, è in bianco e nero, non si vede, con le scritte in sovraimpressione, non vediamo niente noi, no, ormai dobbiamo con sul noi buio, c'è lo la scritta del nome del responsabile per non duplicare. Poi appena è finito il doppiaggio, stranamente il giorno dopo stanno le copie, copia stampa e c'è un film che si vede perfettamente. Esatto. Io l'ho scoperto per strada da uno che lo vendeva, il signor Danelli. Esatto. Com'era? Dico, ma come, scusa, ho finito di doppiare adesso? Esatto. Sì, ma io già l'avevo. Ma come fai? Ce l'ho. Domanda curiosa per Massimo Corvo: perché Sean Bean muore in ogni film a cui partecipa? Evidentemente sarà il traditore che è lui, non il Massimo, ma il Sean Bean. No, evidentemente il Signore degli Anelli muori. È un attore che si rompe i coglioni a fare le cose. Evidentemente, diciamo, per contratto muore. Il Trono di Spade. Sì, sì, anche dappertutto, anche in una serie TV che ha fatto, in Legend che abbiamo fatto poco tempo fa, non muore. No, eh. Però muore sempre. Che dobbiamo fare? Vedi quanto sono attenti. Credo che sia nato pure un gruppo, un fan che difende la vita di Sean Bean. Ma Sean Bean magari vuole morire, cioè, infatti c'è da fare. Oh, insomma, bisogna tenere bisogna in considerazione a lui. Esatto, telefonate a Sean Bean, Rachele, per favore. Se vedete un attimo il motivo per il quale questo memoria durante i film che mi doppia Massimo. La voce di Del Toro in Sin City 2005 è insuperabile. Non ce l'abbiamo. Ah, no, pensavo che partisse. No, no, no, no, sì, magari beh, lui no, è... no, non lo so, perché poi quella... il povero Mauro Meconi deve tracimare follia, perché per scaricare un pezzo di un film devi scaricare tutto il film e tirarlo, no, no, ma scherzi, tirarlo fuori per no cui... ma non, no, non importa, anche Sin City è un'operazione. Beh, il primo, sì. Il primo, sì. Io ho fatto il secondo, per questo dico il primo. No, ma che vuol dire, io il primo perché ho fatto solo quello, poi gli hanno tagliato la testa, è un po' un che destino, non era Sean Bean. No, vabbè, però dice, ma sarà che tutti quelli che doppi te muoiono? No, no, non cominciamo a dire queste cose, no, che non sono vere. No. Perché, ma non muoiono nella vita, cioè, no, muoiono a cinema, hanno deciso, no, loro. Ma poi perché allora Stallone, Fishburne, quello e l'altro, tutti, no, sono tutti tranquilli. No, questo è divertente perché è un... In effetti tu doppiando Benicio del Toro, se spengiamo tutte le luci c'è a Navarro, credo che possa correrti dietro nel corridoio, cioè, no, dai, non male, e poi succede questa cosa. Il bimbo del Vix l'ho imitato per anni, tanti baci a Corvo da Roberta. E come l'ha imitato? Cioè, faceva finta di c'ha la tosse. Lei. Non possiamo fare pubblicità a cose farmaceutiche. Guarda, oggi mi viene benissimo perché sto male, se non so, diciamo, la voce è ancora più cavernosa. Oggi sei ma un non, orco. Non è sempre così, sto proprio un po' inciamurrato e un ma po' acciaccaticcio. Dopo te facciamo fare massaggino. Ecco, se trovo ancora sta signora, solo che c'era una novantina d'anni. Penso da 90. Bisogna fare a lei a rianimazione. È meglio lascia perdere, non la me la cercate. Oggi veramente ci hanno, insomma, non ho dato neanche il numero di telefono. Tony Stark in Iron Man, che c'entra? Sì, è Jeff Bridges. Sì, è un altro attore che... Beh, Jeff Bridges anche tu, doppio, sì, ve lo alternate tu e anche Rodolfo Bianchi. Sì, c'è ragione, è morto. Tony Stark, sì. Sono precisi, scusate, ti ho detto, sono molto più attenti di noi, sanno perfettamente tirare giù il tuo curriculum di cose che tu non sospettavi neanche. No, c'è sì, qualcosa di cui... A me capita ogni tanto, magari la notte giro col televisore e dico, ma questa cosa quando l'ho doppiata? Esatto, non ti riconosci. Non me la ricordo, o mi hanno rapito, proprio non me lo ricordo. Ci sentiamo anche un Bruce Willis, anche Bruce Willis gioca un po' a pallavolo, sempre voci interessanti. È stato doppiato sfortunato, perché è stato doppiato in 20. Sì, però vabbè, ogni tanto bene, ogni tanto meno bene. Vedo dalla faccia, non gli chiedo niente, non gli chiedo niente. No, ma ci poi sentiamo... cioè, ma non si può doppiare tutto, ecco, il delirio di onnipotenza. Lasciamola, io a 30 anni l'ho abbandonato e confesso di averlo avuto. Però sì. Poi, ma sì, perché a 30 anni pensi di spaccare il mondo, di fare tutto, e quindi tu sei più giusto di tutti, sei più bravo di io tutti. Io posso fare tutto. No, però vabbè, dopo... ma ci vuole, ho superato da un grammo di umiltà, credo che si ci chiama, vuole, dai. Si chiama saggezza, si chiama conoscenza. 21 grammi almeno... a proposito di filosofia. 21 grammi, Benicio del Toro. Benicio sì. del Toro su 21 grammi, bellissimo. Muore lì, no, non mi pare. No, 21 grammi è il peso dell'anima. Sì, sì. È Iñárritu, Iñárritu, poi dobbiamo capire come si pronuncia il nome di questo straordinario regista. Ma noi ci sentiamo tratto dal Quinto Elemento, Bruce Willis e ovviamente Massimo Corvo. Voi umani agite in modo strano. Che vuoi dire? Quello che create lo usate per distruggere. Già, la chiamano natura umana. Hai studiato anche questo sul tuo schermo? Non ho finito ancora, sono la Bu. Carina la Bu. Ci sono tante belle parole con la V. E quali? valorosa, vulnerabile, veramente bella. La morte. No, no, no, Lilù. Ascolta, stammi a sentire. Ascolta, so che sei stanca, che sei molto stanca. Ti porterò in vacanza, dopo te lo giuro. Andremo in vacanza, una vera vacanza, tu ed io. Ma ti prego, se non farai subito qualcosa, moriremo tutti. Che scopo preservare la vita, visto l'uso che ne fate? Lilù, tu hai ragione, è vero, ma ci sono cose... ci sono cose che vale la pena di salvare, cose meravigliose, cose bellissime. Come l'amore. Sì, sì, come l'amore, brava, hai fatto un buon esempio. Come l'amore, l'amore va salvato. L'amore va salvato, Massimo. Diglielo Corben, c'è Dario Penne che fa quell'altro attore straordinario. Lei era Laura Lenghi, bravissima. Bello questo momento di grande sofferenza al finale. Sì, un film bello. Bello. Musica di Eric Serra, che sempre Luc Besson, sempre Eric Serra. Magia, anche questa è magia. Magia pura. Senti, amico mio, sei soddisfatto della tua carriera? Molto, sì, beh, sì, certo. Ma è l'amore per questo lavoro. Che senti, si fa nonostante tutto. Mettimi un po' quella sigla, Alessandro, che ci hai ricordato una cosa del suo passato, che c'aveva 20 anni ma già doppiava un 72enne. Vai. Eh sì. E ecco. Dai. Sì, io facevo. Tu sei stato Kabir Bedi. Sandokan, il ritorno. Il ritorno. Kabir Bedi, sì. Che c'era già un pezzo da 50-60. Beh, insomma. Sì, io diciamo che c'avevo la metà, però è stato bello, ma anche quello, sai. Nel primo c'è stato un signore del doppiaggio come Pino Locchi. Pino Locchi doppia Kabir Bedi, dai. Come possiamo? Cioè, è svantaggiosa questa cosa, no? Perché poi sembra anche velleitaria, però. Un giorno dobbiamo fare una puntata con noi ospiti, con dei colleghi qui, e parlare di Peppino Rinaldi, sì, Locchi, sì. Cigoli, Panicali, eccetera, facendo sentire le loro voci storiche, perché così, insomma. Anche ridoppiare un film non è una cosa bella. Eh? Anche ridoppiare un film, no, secondo no, me, non no, è una cosa no, bella. No, no, perché certo te lo chiedono dall'estero, lo chiedono i registi direttamente. Non puoi oppure fare per non pagare i diritti. Sì, ultimamente allora è successo meno. Anche questo, e questo non mi piace. È brutto, è come se tu dai una mano di bianco su un quadro. Non stiamo parlando del quadro di Leonardo, di Michelangelo, di chissà, insomma, un quadro qualunque, un'opera d'arte. Non si fa. No, questo preferisco è una cosa... il gracchiato, no? Sì, il mono e lo stereo antico. Mi chiamo Corvo, se non preferisco il gracchiato io. Ah, io poi il Corvo è la poesia, la cosa, non so come chiamarla, di Edgar Allan Poe, più bella, cioè mai più, meraviglioso, ma mai più non è la parola che ci riguarda. Io ti ringrazio, Massimo, davvero. Grazie di cuore. A voi, grazie, sei stato grazie. Carino, straordinario, no. Amico e professionista, e quindi ti voglio bene. Anch'io, grazie Massimo, e ti vogliono bene soprattutto loro. Ciao a Massimo tutti. Corvo, a Voice Anatomy, noi torniamo tra pochissimo con altre notizie, altri amici che ci sono venuti a trovare. A tra poco con Voice Anatomy. Stufe, caldaie termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, 15:46 primi, 47 in questo momento. Dall'altra parte del cavo telefonico, quando c'era il cavo, adesso pure senza, c'è Filippo Cellini. Voi direte chi è Filippo Cellini. Filippo Cellini è l'ideatore, insieme al sottoscritto, del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, che finalmente è arrivato, credo alla sua ottava edizione, settima, ottava. Filippo, pronto? Buongiorno a tutti. Buonasera, dai, dopo mezzogiorno. Buonasera, hai ragione. Buonasera. Poi con questo tempo meraviglioso, almeno qui a Roma, ma credo dappertutto. È più notte che sera. Esatto. Senti, è l'ottavo Gran Premio o il settimo? Se è l'ottavo, ricordo. In realtà l'ottavo. Siamo al dodicesimo anno di Gran Premio del Doppiaggio, ma la sua ottava edizione, perché per due o tre anni abbiamo tenuto in pausa il premio, mentre per negli ultimi cinque anni di seguito il premio è andato sempre crescendo ed è diventato a tutti gli effetti il premio più importante, possiamo dirlo. Sì, sì, assolutamente sì, con tutto il rispetto degli altri premi, assolutamente. Certo. Questo è un premio che abbiamo aspettato anche alcuni anni per riproporlo in quel periodo, perché questo premio ha bisogno di grande presenza, di grande regia, di grande impatto, di grande spettacolarizzazione del, del doppiaggio, e questo lo è. Anche quest'anno, il 29 novembre, all'auditorium del Massimo a Roma, un auditorium bellissimo di oltre 1000 posti che sta all'Eur, dove ormai da qualche anno facciamo questo gran premio, e finalmente siamo arrivati alle nomination. Però la cosa che volevo dire, per dare spazio a tutta la gente che ama il doppiaggio, anche Radio 24, che è sempre stata ultimamente, insomma, la radio ufficiale di questo premio, dare la possibilità a 100 persone, non doppiatori, ma soltanto pubblico, di venire ad assistere a questa esclusivissima serata. E vogliamo darlo, la possibilità, proprio agli ascoltatori di Radio 24, o agli amici, ovviamente, non soltanto chi ci sta ascoltando, ma anche chi lo verrà a sapere. 100 posti la Ince regalerà a, esatto, 100 fortunati. Dove devono chiamare? Intanto c'è il sito, no? Allora, innanzitutto c'è il sito, e sicuramente ci sono tutte le indicazioni sul sito, che è premiodeldoppiaggio.it. www.premiodeldoppiaggio.it, no, premio internazionale, no, premiodeldoppiaggio.it. Ma poi abbiamo dedicato un numero che è il seguente, prendete nota per chi fosse interessato: 344-263-6463. Lo ripeto, sì. 344-263-6463, o comunque www.premiodeldoppiaggio.it, o comunque seguiteci Gran Premio Internazionale del Doppiaggio sulla nostra pagina Facebook o su Twitter, e in tutti questi luoghi virtuali verranno indicate le modalità per poter accedere a questi 100 posti che assegniamo ai primi che chiameranno, ai primi che si metteranno in contatto con noi, anche per sollecitare ancora di più il fatto che il premio non è un premio dedicato solo agli addetti ai lavori, ma un premio che si rivolge a tutto il pubblico, perché il doppiaggio è un'arte che piace a tutti. E a questo proposito volevo proprio dire, forse lo spirito dell'edizione di quest'anno, in un momento in cui il mondo dell'audiovisivo in generale sta vivendo momenti di grande rivoluzione e sono sotto gli occhi di tutti, in Italia in particolare, le grandi difficoltà che hanno le produzioni cinematografiche, anche televisive, a farsi vedere all'estero, beh, bisogna dire che quando viene qualcuno dall'esterno, un produttore, un distributore, la prima cosa che fa qui in Italia è rivolgersi al doppiaggio. L'esempio eclatante è Netflix, che prima ancora di iniziare a produrre serie in Italia, speriamo ne faccia tantissime, la prima cosa che ha fatto è stata rivolgersi ai grandissimi doppiatori italiani e far doppiare tutte le serie che sta distribuendo in questo momento. Questo vuol dire che dall'estero ci viene riconosciuto un valore incredibile nel doppiaggio. Non è, come si dice, uno sminuire il prodotto originale, ma in questo veicolarlo, assolutamente. Quindi il premio del doppiaggio vuole dire anche questo, e vuole dirlo a tutti, non solo agli addetti ai lavori. A questo punto, Pino, non ci rimane che dichiarare le candidature di quest'anno. Sì, anche perché però vorrei che facessi tu, perché io non ho, nonostante organizzo il premio, non ho una grandissima voce. No, quindi neanche un gran corpo, però va bene così, però ci sarai. Questo lo dici tu. No, ma è poi una cosa bella, perché si premieranno anche i tecnici del suono, del mixage, gli adattatori, cioè l'assistente, il direttore, cioè tutto il mondo del doppiaggio, e poi è un'occasione per vedere da vicino i vostri beniamini e i vostri eroi. Ovviamente poi i premi li daranno degli attori, attrici, anche molto molto famosi. Ci sarà anche, credo e posso dirlo, l'orchestra di Santa Cecilia presente quest'anno. In realtà non è l'orchestra. Non è l'orchestra, cioè, ecco. No, perché scusami. No, sarebbe un 100 elementi. Esatto, sarebbe una cosa e non c'entreremo neanche. No, diciamo che quest'anno, sempre per sollecitare il pensiero che il doppiaggio non è semplicemente la voce, ma è tutto il lavoro che c'è dietro al suono di un film, di un prodotto audiovisivo, quest'anno vogliamo dare grande risalto anche all'aspetto della musica, insomma, no? La musica è sempre stata la musica da film, eccetera. Per cui ci sarà una bella orchestra, anche un orchestrone enorme, dove si alterneranno direttori d'orchestra, no? 30-40 elementi ce l'avremo, dai. Vado con le candidature. Le candidature, non dirò tutte, magari le cose più importanti. Allora, miglior direzione di doppiaggio, l'Academy ha scelto queste 5 candidature: Il Ponte delle Spie, diretto da Fiamma Izzo; The Hateful Eight, il film di Tarantino, diretto da Rodolfo Bianchi; Steve Jobs, diretto da Alessandro Rossi, l'ultimo film di Steve Jobs, non il vecchio Jobs che non era granché. Ave Cesare dei fratelli Coen, Marco Mete, The Martian, Il sopravvissuto, diretto da Massimo Giuliani. Il miglior doppiatore protagonista quest'anno potrebbe andare a Flavio Aquilone per The Danish Girl, Luciano De Ambrosis, Remember, un film straordinario con un grandissimo Christopher Plummer, Francesco Prando per Macbeth, Mino Caprio, Dio esiste e viva Bruxelles, un film meraviglioso, e Mario Cordova, L'ultima parola, la vera storia di Dalton Trumbo, un film che vi raccomando, tutti i film bellissimi. Miglior doppiatrice protagonista potrebbe andare a Melina Martello, che doppia una Charlotte Rampling già candidata all'Oscar per questo film che era 45 anni, si intitola. Chiara Colizzi, la protagonista femminile di Hateful Eight. Alessia Amendola, straordinaria in Room, questo film che ha visto anche la possibilità a questa giovane attrice di poter vincere l'Oscar quest'anno. Emanuela Rossi, Carol, Kate Blanchett, questo film su questa vita lesbo di questo grandissimo personaggio. Valentina Mari in Joy, film dove la Lawrence ormai ogni film che fa viene candidata, ma devo dire che riesce ad essere leggera e nello stesso momento molto intensa. Il miglior film d'animazione potrebbe andare a uno di questi tre: Zootropolis, un film straordinario, ha avuto successo in tutto il mondo, dove non ci sono attori famosi o attrici famose che lo doppiano, ma solo attori doppiatori. Anomalisa, un film a passo uno, stop motion, ma dovete vederlo, un film intenso. E Alla ricerca di Dory, film della Pixar di grandissimo successo. Ma non voglio dire altro, ci sono le serie TV che sono queste cinque nomination: Narcos, Orange is the New Black, Il trono di spade, Mr. Robot e Ray Donovan. C'è dentro una serie che ho doppiato anch'io, anche se Rachele fa così con la testa. Su Ray Donovan, Rachele? Su Ray Donovan? Ce l'hai con me? Vabbè. E ci sono anche le edizioni d'autore, dico queste e poi basta, che sono quei piccoli grandi film che sono magari poco visti, ma c'è grande interpretazione. Dentro c'è Io, Daniel Blake, di Mike Lee, Mustang, un film bellissimo, queste cinque sorelle iraniane, eccetera, Neruda, questo film che tuttora è in circolazione, 45 anni, e Land of Mine, Sotto la sabbia. Piccoli grandi film. Filippo, devo salutarti, queste sono in anteprima alcune delle nomination del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Un abbraccio a te, vi ricordo 100 possibilità per 100 ascoltatori di venire a vedere dal vivo all'Auditorio del Massimo. Seguiteci su premiodeldoppiaggio.it oppure il numero di telefono che non ricordo, che hai già dato, ma potete vederlo. A tra poco, ciao, ciao Filippo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy dai microfoni di Radio 24. Un ospite al telefono perché sta per andare in scena tra pochissimo alla pomeridiana, lo presento. Lui è nato a Roma il 7 marzo del 57, è un attore ed è un attore comico italiano, è cresciuto a Cecchina, ha iniziato la sua carriera nel laboratorio teatrale del grande Gigi Proietti e insieme ad altri grandissimi colleghi ha creato il gruppo La Zavorra, un gruppo straordinario, e ha fatto un varietà. Oggi è stata la festa di Antonello Falqui ed era l'autore insieme a Michele Guardì di Al Paradise, insieme al grande Oreste Lionello. Attualmente al Teatro Tirso de Molina a Roma con lo spettacolo I sorrisi del portiere, spettacolo come autore Carlo Picchiotti e la regia del bravissimo Claudio Boccaccini. Lui è il grande Rodolfo Laganà. Pronto Rod? Pronto Pino, ciao, come stai? Io sto bene, quanto manca? Per poco in scena, 40 minuti. Esattamente, sì, tolto dalla concentrazione. Senti, questo qui, che spettacolo hai? Sorrisi? Tu ne fai tanti di spettacoli, tutti bellissimi. I sorrisi del portiere mi fa ridere, mi immagino tu farai varia umanità là. Guarda, è la storia di un portiere pluriennale, quindi di un portiere serio, che attraverso questa sua arma micidiale, che è il sorriso, e riesce a fare un sorriso per tutti, a conquistare quindi anche le cose intime, ironiche, drammatiche di ogni inquilino. Poi alla fine viene chiamato addirittura da un commissario, perché ci sarà un colpo di scena finale che naturalmente non ti dico. No, non lo dici, lo spoiler non lo facciamo, dai. Ma lo spoiler non lo famo. Poi si chiama spoiler, io ci ho messo sai quanto per capire che cos'era sta parola, sì, lo spoiler. Io ancora non ho capito, figurati, una volta ho risposto, ma tu non fare spoiler, ho fatto, no, guarda, io c'ho una macchinetta normale, una 500, non è, lo spoiler non me la sono mai fatta, perché... No, spoiler, non... cioè, domenica sì. Lascio un garage. Sì, ma non conviene, non perché poi piove, te fai uno spoiler adesso. Bravo. Che piove, non conviene. Non va la pena. Lo spoiler è quando racconti il finale di una serie, no? Oppure il risultato di strutturale, drammaturgico di un altro. Ma perché non parlavi italiano? Uno dice, racconti la trama. La trama, esatto, e mi dici la trama. E dai. Hai capito, cioè basta. È come Timmer Patti o media rotonda, esatto, la stessa cosa. Come si dice a Roma, no? Quando dici poche cose. È come, certo, lo spoiler di Profondo Rosso, è quando girava, tu giravi per Roma e dici, assassina la vecchia. E t'hanno rovinato il film, era così, sì, era. Sì. Quello è uno spoiler. Proprio passavano davanti e tu tirassi le orecchie. Esatto, però, quello è spoiler. Il portiere alla fine di... non lo dico, no, non lo so. Il portiere è quello, poi alla fine. Il portiere normalmente si sa, c'hai i cazzi di tutti, esatto, insomma, no? Come sì, cosa prioritaria, quindi... Per cui. È vero. Però bello, perché è un'interpretazione di un personaggio, mi andava di interpretare un personaggio, questo l'ho trovato giusto, ritagliato giusto. Giusto per me, e quindi lo sto facendo, sta andando molto bene, sono contento. Cioè, fino a quando stai in scena lì? Al 27 di novembre, poi continuerò il mio solito raccordo anulare World Tour, come ho fatto l'anno scorso. Quest'anno me li faccio altri 5-6 teatri. L'anno scorso ho fatto 78 date a Roma, a Torneo ho fatta tutta qua. Sei diventato... Sì, finisce papà raccordo, non me frega niente. No. Da annaffarire uno de Monza, sinceramente, te credo che proprio... Non ce la puoi fare, dici tu. No, ma l'hai già fatta, per quello anche, non è che hai girato poco anche tu col teatro, eh? Sì, beh, l'ho fatte tante, con Garinè, Giovannini, così. Quanti spettacoli hai fatto? Sì, tu hai fatto Alleluia Brava Gente... Ho fatto Alleluia Brava Gente e Rinaldo in Campo, Massimo Ranieri. Con Massimo Ranieri. Sì, sì, e poi altri tipi di tournée, insomma, anche con Pannofino, quando abbiamo fatto i Suoceri Albanesi, insomma, ma ho girato un po' Full Monty, eccetera. Sì, è vero, ne hai fatti tanti. E io ricordo quel gruppo straordinario, la Zavorra veramente non ha cantato troppe estati, perché eravate tanti e tutti i grandi protagonisti, Massimo Wiermüller, aiutami, sì, Paolo Tiziana Cruciani, Patrizia Loreti, Silvio Annucci, sì, insomma, eravamo un gruppo molto affiatato, ma molto stupidi, perché abbiamo sfasciato subito da, sì, grandi furbi. Era come la nazionale di calcio, sì. Il bot. L'abbiamo sfasciata, capito? Il paraculi. Poi è una trasmissione che è stata, ha vinto i premi in tutto il mondo, che era il Paradise. Poi oggi è la festa, sai, di Antonello Falqui, gli ho fatto gli auguri, lì 91 anni oggi il grande Antonello Falqui. Lo so, io andrò a festeggiare da lui stasera, infatti. Ah, che bello. Antonello è il mio papà, il papà artistico, ma proprio c'è un grandissimo affetto da tanti anni, insomma. Un uomo straordinario, davvero. Avete sfasciato tutto, mi fa, è vero, avete fatto poco rispetto a quello. Come a Lazio, a Roma, di certo in periodo storico poteva vincere molto di più, invece non abbiamo vinto niente. Esatto, vinto poco. Questa cosa abbiamo fatto noi, abbiamo vinto parecchio, abbiamo buttato tutto all'aria. Per questo, quando si tratta di essere intelligenti, a me ci sfugge niente a noi. Come dice Mattioli, se scoppia una guerra dei cervelli, muori disarmato, cazzo. Sì, esatto. Esattamente così. Senti, amico mio, beh, comunque questa storia è bella, è bella. Il Teatro Tirso poi è un piccolo teatro, una bella bomboniera a Roma. La zona aiuta le persone, magari lo conoscono meno. Io lo so perché ci ho anche recitato. Però sì, sta Regina Margherita più o meno... No, via Po, una traversa da quelle parti lì, insomma. Io come riferimento do sempre il Piper, dietro il Piper, che lo conoscono tutti, capito? È vero. Sì. La zona è questa. Il teatro è molto carino, si è fatto un giro buono di poi... Sì, devo dire che Achille è veramente un grande eroe, lui e sua moglie, perché aprire un teatro... Sì. Il teatro è come il delitto, non paga, come dice Ciufoli. Esattamente. Hai ragione, è vero, è vero. Senti, allora, l'autore è Carlo Picchiotti. Picchiotti, la regia di Claudio Boccaccini, che è bravissimo, bravissimo. L'aiuta regia è Maya Melis, le musiche sono di Roberto Giglio. Sei altre persone in scena oppure sei da solo come no, mattatore? Da solo. Sei da solo? Sono da solo. Ma hanno rimasto solo. Ma hanno rimasto solo, esatto. Quindi questa sorta mi hanno abbandonato proprio tutti. Per cui se fai ti hanno ammollato, dicevo un po' girato. Noi volevamo girare. Ma facevano più, basta, scappati tutti. Però raccordo annullare World Tour. Raccordo annullare World Tour mi piace molto. Sì, sì, questa è la terza edizione, quindi ricominciamo e partiamo. Beh, mi piace veramente tanto, perché come... Grazie. Senti, amico mio, va bene così. Adesso stai per andare in scena. Ma di che, no, Rodolfo? Tanto verrò in settimana a applaudirti. Se vuoi venire, vengo. Mi fa piacere, ti aspetto qui. Vengo va e bene. Te vengo a abbracciare, amico mio. Va bene. Un abbraccio enorme. Ciao, Rodolfo. Un abbraccio a te, un saluto a tutti. Grazie, ciao, ciao. Ciao, amico, Rod, ciao. Grazie. Allora, ciao, bello mio. Lo ricordo ancora. Rodolfo Laganà, lo conoscete, sapete la sua simpatia, la sua bravura, e poi insomma crescendo uno diventa sempre più intenso e riesce ad asciugare tutte le forme extra che non servono a niente su un palcoscenico. Lui ci sta riuscendo benissimo. I sorrisi del portiere, vi ripeto, l'autore Carlo Picchiotti, la regia di Claudio Boccaccini, vale veramente la pena. Noi insomma cerchiamo sempre di veicolare attraverso questi microfoni cose di cui vale la pena parlare e vedere, come il cinema, come un buon teatro, anche una bella serie, un bello sceneggiato, eccetera eccetera. Sapete perfettamente che non facciamo pubblicità gratuita soltanto per riempire gli spazi di questa radio, non è così. Mi sta per raggiungere l'altro ospite, che è Sebastian Gazzarrini. Non devo ancora parlare perché non tocca a lui, questo giovincello. Vi ricordo ancora la possibilità di 100% di voi di accaparrarsi i biglietti del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio il 29 novembre all'Auditorium Il Massimo. Il sito è www.premiodeldoppiaggio.it, oppure Facebook Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, Twitter, e c'è anche un numero di telefono che purtroppo mi sfugge, però insomma già con questi elementi che vi ho dato potete facilmente raggiungere la possibilità di partecipare con noi. E allora restate con noi, fra pochissimo saremo in diretta con Sebastian Gazzarrini e vi racconterò chi è questo disgraziato. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Voice Anatomy. Come promesso, signori miei, siamo di ritorno. Voice Anatomy 17. Riesco sempre a entrare quando manca un secondo ad arrotondare il minutaggio. Vicino a me vi racconto chi è Sebastian Gazzarrini. Qui qualcuno tanto mi dice: ci saranno anche premi quest'anno ospiti stranieri, eccetera. Sì, forse sì, ma ci saranno tanti ospiti italiani, tanti attori, tanti doppiatori, tantissimi ospiti mirati. Allora, Sebastian Gazzarrini, mi metti una musica, almeno vi faccio sentire come si fa veramente, non come fa lui queste cose, insomma, che veramente mancano di rispetto alle persone. Sebastian Gazzarrini è nato a Firenze il 16 luglio del 1992. La sua adolescenza è divisa tra sport, in particolare il basket, praticato ad alti livelli. Il 26 aprile 2013 un episodio del tutto casuale lo porta a filmarsi con il cellulare e mettere in video in rete, con il solo scopo di fare una semplice ironia con i suoi amici. Questo video inizia a diffondersi in maniera virale, tanto che verrà spinto da molte persone a continuare a fare video ironici simili a quest'ultimo. Dopo circa un mese decide quindi di aprire un canale YouTube e una pagina pubblica su Facebook. I suoi video hanno colpito così tanto e in così poco tempo il popolo toscano, al punto che l'attore comico Alessandro Paci lo nota e prende i contatti con lui, promettendogli una parte nel prossimo film assieme a Massimo Ceccherini. Da quel momento viene chiamato da numerose radio, web radio, radio locali per interviste o per semplici battute, inviato come ospite a numerosi eventi in tutta la Toscana. E da lì ha spiccato il volo. Questo è Sebastian Gazzarrini. Adesso trattami male se ci riesci. Fantastico, fantastico. Questa mettila sull'apertura della tua pagina. Chiaramente la biografia l'ho scritta io. Assolutamente. Non è apocrifa, è tua. Non so cosa vuol dire apocrifa, però sì, assolutamente sì, l'ho scritta io, almeno per darmi un certo tono. Quanti anni hai, Sebastian? 24, ecco, ben 24. Io insomma. E te siamo praticamente l'analogico e il digitale. Tu sei l'espressione di questo periodo storico. Come comunicazione totale, e io certo faccio parte un po' dell'altra parte, ma accettando assolutamente questo osmosi. Okay, no. Gazzarrini, prima di iniziare, senti l'esigenza di cantarmi qualcosa? Assolutamente sì. Bisogna prima raccontare, ovviamente, al nostro pubblico che magari okay non è abituato. Tu hai cominciato cantando delle cose all'improvviso, tu, delle persone che stavano vivendo un attimo della loro vita, tu intonandoti a quell'attimo hai raccontato, so, una persona che stava per terra, non sapeva dove andare, tu ti avvicinavi e cantavi io vagabondo che sei, esatto. Guarda, quello ti guardava con una faccia per dire che hai fatto veramente tantissimo, molto divertente. Esattamente, sì, dovevo trovare proprio il momento giusto e la canzone giusta, e io, ignorante nella musica come sono, è stata la parte più difficile. Stavo lì, pensavo, guardavo su internet, uno che mangia il gelato, canzoni col gelato, gelato e allora al cioccolato, esatto, dolce passato. E così è nata questa cosa, sì, che pian piano dovevo trovare sempre più canzoni, mi sono un po' informato e ogni volta che vedevo una persona, anche se non stavo girando un video, mi veniva in mente sempre una canzone. Quindi qualcuno ti può cercare se non lo conoscete, ovviamente il grande pubblico dei youtuber eccetera lo conosce perfettamente. Speriamo in questo momento poi sta lavorando in televisione, cioè curi, esatto, per X Factor, stai curando la pagina, parte web, sì, la parte sto, web. Sì, esattamente, ogni puntata dirigo il mio pubblico a commentare, a parlare della puntata sul web, chiaramente. Questo devo dire che X Factor è veramente un gran prodotto, figata. No, veramente un grandissimo prodotto. Poi non so cosa succederà a quei cantanti, perché non lo so, sì, quello non se ne può parlare lungamente, sì direi, perché poi sì, non si investe poi secondo me troppo su delle persone e ce li perdiamo per strada, magari dei possibili, sì, a volte vincono dei prodotti e non dei cantanti, sì, a volte vincono dei cantanti che non sono così prodotti da poter essere, cioè, sì, esatto, devono essere veicolabili, esatto, so, esatto, sì, questo è un po' complicato. Oltre a quello sto facendo il mio grande sogno, che non so se volevi dirlo in le caso. Iene, certo, sì. Come no, ci sarei arrivato. Però sì, io orgogliosamente volevo dirlo, perché le Iene è un punto di riferimento per quanto riguarda, è l'unico programma, devo dire, che è nato guardando al futuro, insomma, quando è nato era, sì, era proteso verso il futuro, infatti non ha avuto un successo immediato, poi si è trovato il modo giusto per declinarlo, certo. E Paretti, insomma, non è uno stupido qualsiasi, un genio, è sicuramente un grande, genio, un grandissimo autore. Ciao Davide. Salutiamolo. Sì, certo, ci siamo assicurati le prossime due edizioni. Non è da youtuber quello che stai facendo, perché dovresti fregartene un po' di tutto, no? No, sì, però devo dire che le Iene per me è sempre stato il mio sogno. Io pensavo, certo, che ne so, magari tra 4-5 anni riesco ad avere una piccola possibilità. Ce l'ho avuta ora a 24 anni, quando l'ho saputo quest'estate da una telefonata di Davide al mio cellulare con l'anonimo, lo stavo per mandare a quel paese. Sì, chiaramente. Sempre così, sì, ma che cazzo è che rompe le balle a questo? Esatto, quando ho scoperto che era lui mi sono pietrificato un attimo e ho iniziato questa avventura pazzesca, davvero pazzesca. Non hai avuto la stessa sindrome di Stendhal quando ti ho chiamato io per venire in radio? Però. Devo dire che probabilmente mi ero appena svegliato, forse era per quello. Non avevi capito, c'è un sogno, mi sta parlando forse un attore, non riesco a capire. Ma io sono chiaramente cresciuto con la premiata ditta, caro Pino. Guarda quindi come t'ho cresciuto, figlio mio. Senti, esatto. Gazzarrini, insomma, questa cosa di Iene ti ha riempito di gioia. E devo, sì, dire, sì, Iene è un programma di riferimento importante per quanto riguarda poi un pubblico giovane attivo. Sì, per un pubblico giovane, non solo, io sul web ho molto giovane, anzi quasi solo pubblico giovane, mentre le Iene spero che mi possa dare in futuro un pubblico. Aumenta, sì, sicuramente non è generalista, esatto, come Rai 1 o Rai 2 o Rai 3, Italia 1, insomma. C'è un mix di generazioni, sì, diciamo, sì, così. Sì. Lo posso guardare io come te, caro Pino, no? Vuoi lavorare anche con i prossimi anni? Te l'hanno detto che sono, sì, bastardo? No, non sì, so. Sì, ah, okay, sei una merda. Non lo so, benissimo. È notoria questa cosa, ma sei educato. Sì, dai, sono molto educato. Ma no, ma uno deve essere ironico, graffiante, tu ci sei riuscito. Però una canzone, quando finisce questo blocco a 28, poi va via subito. No, resta. Mi fa Mauro Meconi, mi sta facendo dei segni. C'è un microfono se vuoi parlare con me, Mauro Meconi. Sai, che vuoi dirmi? Dimmi che io intanto copro il tempo che passo con questa buca bianca e non mi ha detto niente. Non dice... no, no. Dimmi. Manda il contributo. Manda il contributo. Allora, beh, non era difficile di manda il contributo. Cioè, no, sì, anche io ho visto dei segni strani. Sì, da parte sembrava di Mauro, chissà che sì, cosa abbiamo detto di sbagliato. Allora, ecco, mandiamo il contributo dove riconosceremo Sebastian che combina qualcosa con la gente. Cantare sulla gente. Vai. Te posso cantare una canzone? No. Tu sei lei, donne, in cerca di guai. Ma sei normale? Bello, bello impossibile. Ma vivo sempre insieme ai miei capelli. Ma va. Fuori è magnifico, sì, ma tu un po' di più. Quello era pelato, ovviamente, quello di capelli. Quello era chiaramente pelato. E che dice? No, dovete vederle. Ma è bello andare in giro. Perché c'era uno che stava guidando un muletto. Sì, quello sta mangiando un panino. da solo. Certo, bella rottura di pallone, sì, che si avvicina così non è male. Sì, sì, assolutamente. Sei fresca come l'aria. E invece che cos'è? Una signora anziana? Non me lo ricordo. Sì, può essere probabilmente una signora anziana. Non novantenne, gli hai rotto le scatole in quel modo. Assolutamente sì. Qui mi dicono YouTube, tu sei molto bravo, ma c'è anche Giuseppe Simone. Io non conosco. Beh, bravo. No, diciamo che sono due cose molto diverse, caro Pino. No, sì, io non lo conosco, ammetto, no, la mia ignoranza. Sì, lì è più sul trash, diciamo. Io andiamo. Spero di non essere sul trash, diciamo. Lì, diciamo, picchiaduro. Sì, è pesante. No, una roba se molto... si manca di rispetto non mi piace neanche a me, però sì, magari qualcuno può interessare a tutto. Qui, sembra che chiaramente non si è visto, perché bisognerebbe vedere soprattutto vedere, sì, le reazioni. Sono, sono molto educate, sia le reazioni che quello che fai tu. Insomma. Sì, ma soprattutto perché è una roba che fortunatamente le persone, alle persone risulta simpatica, nel senso che io arrivo da dietro, dal nulla, senza che lui sappia che lo sto filmando, però in un modo in cui questi all'inizio non capiscono, dopodiché ridacchiano perché dicono: ma cosa sta facendo sto pazzo? Cioè, ma poi chiedi una firma, qualcosa per la liberatoria, oppure fai assolutamente come no, cioè, come vuole. Sì, lo so, ma però è il vero YouTuber questo fa, insomma. Sì, sì, anche perché noi venendo da YouTube, Facebook e questi mondi qui, perché io utilizzo molto di più Facebook che YouTube, c'è una differenza molto importante. Qual è la differenza? Spiega un ignorantone come me. La differenza è la seguente, cioè YouTube è una community. Sì. Sono tutti legati tra di loro, diciamo, vanno a eventi tutti insieme, ognuno ha un percorso, a volte più lungo, a volte meno lungo, molto lungo di solito, per arrivare a lavorare fuori da YouTube, o comunque si limitano a lavorare in YouTube, e questo piace a loro, piace essere degli YouTuber. Io lavoro più su Facebook perché è 3 anni alla fine che ho aperto questa pagina Facebook, e in 3 anni sono riuscito a raggiungere per me, nel mio picco, degli obiettivi che per me erano grandissimi, perché Facebook è molto più veloce, la condivisione, sì, è più veloce. YouTube devi cercare quella cosa per guardarla, è Facebook vero, no, ti appare nella l'ho home. Visto con la premiata ditta, mettendo un paio di video, sono arrivati a 10 milioni, a 4 milioni, esatto, milioni di views. Quanti follower hai? Quanti seguaci? Al momento mi sono un po' fermato su Facebook e sono più di 600.000. Beh, in, insomma, dai, insomma. Sì, in questo periodo ristretto di tempo, diciamo che sono tanti, sì. Beh, però, sono tanti, sì. Sì, però. Che poi è pubblico attivo, non sono persone, sono persone. Tu dici: faccio un libro, che l'hai fatto. Oh, sì, tu sì, hai fatto un libro. Sì. E lo dici anche con un tono. Malinconico, no, non so come dire, ma insomma, no, ha scritto lui un libro. No, per carità, non se ne caga niente a nessuno. Ah, okay. No, però un libro che dà. È un libro. Anche... si dà possibilità anche a quelli giovani come a te. A chiunque, cani e porci, volevi, esatto, dire forse. L'hanno detto pure per strada a me a Ciufoli, una bambina, dice: saluta, saluti i cani e porci, saluta pure loro. Noi siamo rimasti molto male. Ma comunque, il libro si tira: mamma, sono diventata una web star. Esatto, esatto. E secondo te, da un titolo del genere, sì, cosa con la mia faccia stampata sopra, no? Cosa ti immagini? Ti manca la cifra che danno se uno te becca per strada, insomma. Sì, esatto, esatto. Wanted. Esatto. Devo dire che non è una biografia. No, puoi, chiaramente, no, c'è la mia, dai, faccia sopra. Ma no, soprattutto c'hai 20 anni, santo, no, Dio, già, infatti, ti racconti. Loro volevano una biografia, perché noi del web abbiamo questo pubblico, e quindi volevano: ma raccontaci di te. Io ho detto: io ho 23 anni. Insomma, si diventa grandi da quell'età, da 20 a 27, dopodiché sei più YouTube, dopodiché sei una persona che ha la prostata. Normale, normale, cioè. Normale. Ma infatti quello che ho detto io è: ma cosa vuoi che racconto io alla mia età? Che è successo? Come sei arrivato? Quello, sì, che ti sto chiedendo io. Come, esatto, vedi? Però un anno e mezzo racconto, cioè non è un granché. Quindi cosa ho raccontato? Scrivi largo. Scrivi molto largo, scritto larghissimo, paginate con lettere enormi. E da lì invece ho deciso di scrivere una storia che avevo in testa con dentro le mie emozioni. Ma dille fra un po', perché andiamo un attimo in pubblicità e sai perfettamente che succede questo. Ma tra pochissimo, un minuto. Prego, a tra poco con il nostro amico. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy 16:32. Vicino a me l'amico Sebastian, che sta qui e sta cercando di veicolare il nostro rapporto anche sulla pagina Facebook, dove spero che tu e i tuoi follower direi di mettere un mi piace sulla pagina di Voice Anatomy. Assolutamente, mettete tutti like alla pagina di veri, Voice Anatomy. Veri, capito? Veri, non li compriamo, assolutamente, i like. Non si compra. E ti costringerò forse alla fine della puntata, non vorrai, a creare una pagina Facebook, caro Pino. Un'altra? Un'altra? Cioè, che no, ce n'è mia, tua, di, ah, di mia, Pino. Mia, Pino. Non vuoi proprio. No, c'è, esisteva, esiste, ma siccome poi ho scoperto che c'erano 137 fake... È un casino, è un macello. Però adesso c'è il bollino blu e così se c'è il bollino come la banana. Come la banana, sarai una cichita. Eh, no, sì. E sponsor a caso. Vabbè. No, e in quel caso almeno sanno che sei te per forza. Ah, c'è un controllo. Frega... No, me ne frega, e come? Perché insomma, veicolando il teatro, il doppiaggio, eccetera, non buttando le tue risorse, è giusto veicolarle adesso in questi nuovi sistemi, la comunicazione ai nuovi media è questa, insomma. Esatto, alla fine ti costringerò a crearla. No, la facciamo, tu mi segui e poi mi fai da segretario. Mi fai ok. Mi fai come il web per X Factor, lo fai per Pino Insegno. Vabbè, per Pino Insegno. Dice, io non so chi è la pagina, ma cavolo, è Gazzarrini che gli fa la pagina, per cui pensa chi è quest'altro. Sarei odiato da un sacco di persone allora anche, no, mi dispiace. Vabbè, che purtroppo c'è anche lì. C'è una lotta interna fra youtuber come l'East Coast e la West Coast americana per il rap? No. Assolutamente c'è, sì, c'è. Ma non tra youtuber, ma tra... youtuber e Facebook. Facebook star, tra virgolette, purtroppo c'è questo nome, come web VIP, star, che sì. Non è no un... vabbè sì. Insomma, però sì, c'è questa lotta tra Facebook e YouTube, perché gli youtuber, te l'ho detto, sono una community, tutti amici. Quelli ma tutti di amici, Facebook, beh, sono amico, tutti mio, amici, tutti. Assolutamente, mentre tra di noi c'è più rivalità, diciamo, e questa è una cosa che nessuno dice, perché tutti mettono le foto con tutti, viva l'amicizia, eccetera, YouTube Italia. In realtà poi ognuno cerca di rubare il posto all'altro, cioè io sono molto crudo, molto diretto e dico la verità più o meno. Questo bisogna, almeno voi, santa miseria, almeno voi giovani, dai. E quindi alla fine è così, ognuno cerca di fregare il posto, di fregare il follower all'altro. Anzi, quando si fanno le foto insieme, basta non rubare la donna, però insomma. Ma non lo so, forse pure interessa quella, più la follower. Sì, sì, perché quando si fanno una foto insieme è per prendere i follower di quell'altro, sì, ti taggano, capisci? E tu faccio hai fatto solo foto da solo, infatti. Tu l'hai fatta con me prima, ma hai taggato. Ah, con te, sì. Ma hai fregato. No, sono io che mi approfitto del tuo veicolo. Lo dicevamo prima, secondo me è giusto che una persona di un'altra età, come posso essere io, eccetera, trovare la strada giusta per veicolarsi, non andare in discoteca con te, ballare il rap io e te, perché sennò sembra un deficiente. Sarebbe fuori luogo. Sarebbe fuori luogo, ma prendere la tua macchina, darti il mio valore aggiunto e tu il tuo, che è il nuovo veicolo, insomma. E noi spesso veniamo chiamati per fare questo, che possa essere un programma televisivo, possa essere una roba... della televisione deve essere veicolata nel web o il contrario. Certo, come giustamente Sky è esatto. Fenomeno di questo. Sky è, sì, è al passo con i tempi. Assolutamente, sì, ci sfrutta molto. No, sto scherzando, sì, ci no, cioè, no, no, ci... devi lavorare. Viva Davide Parenti. Collaboriamo, oh, viva Davide. Viva Sky, viva Scrosati, viva. Sì, viva tutti. Tutti. Assolutamente sì. Però sì, questo è molto importante, cioè noi utilizziamo molto, cioè utilizziamo, ci fa molto piacere quando mi hai chiamato per venire qui, io sono stato molto contento perché a parte sono cresciuto la prima ditta. Ripeto, certo, ma è giusto. Insieme a mia madre sul divano a guardare. Soprattutto sempre. Tua madre. Soprattutto cresciuta con la premiata ditta. Quanti anni ha mamma? Abbastanza. Ma che abbastanza? Vabbè, sei... diciamo tanti, dai. Ma quanti anni? Tu cioè, sei figlio unico? C'ho un no, figlio... ho un fratello. Di quanti anni? Di qualche anno, 4 anni in più di me. E allora tua madre ci avrà 57 anni, 60. Qualche annetto di più, però dimostra molto bene, quindi è molto beh, giovane. È cresciuta con la premiata ditta. Come vuoi che sia cresciuta? Assolutamente. E quindi è bello essere qui perché io dal web con un telefonino faccio dei video stupidi, comunque semplici, eccetera, e mi ritrovo adesso a fianco a te a parlare di queste cose. È pazzesco, cioè no, mi stai dando un valore aggiunto enorme, capito? No, lo stai dando anche tu, perché è giusto valutare quello che è. Ti ripeto, il trash non ci interessa. Certo, non ci interessa essere quella persona è famosa perché ha dato una capocciata o ha tirato la no. torta in faccia. Ah, no, non mi interessa, no, non interessa neanche a me. Però capire anche che cosa significa questo nuovo modo di comunicare e cercare di capirlo e comprenderlo, perché bene o male tutti abbiamo dei figli più giovani che dice che stai seguendo Favi J che sta a giocare a un videogioco, perché? E mi dice papà perché non ci giochi te? Cioè, perché stai a vedere sì. uno che sta a giocare a un videogioco? E non te la fai solo te questa domanda, me la faccio anch'io. Esatto, su certi me la faccio anch'io. Sì, infatti sì. Favi J non ho visto in giro per Radio 24 sta a giocare a qualche videogioco a casa, insomma. Salutiamo no. anche no perché da salutiamo pure Favi J ma no, sì no. se sa mai va a fare un film in America. Ma sì, e poi insomma guadagnano pure benino queste... sì, c'è questo, sì c'è questa categoria che si chiama gamers, che sono questi ragazzi di YouTube che si mettono a giocare alla PlayStation sì. e tutti, non i coetanei ma quelli più piccoli ancora, 12, 13, 10 fino ai 14, 15 anni seguono loro seguono che giocano che giocano, cioè, ma questo... che valore aggiunto danno? Danno la, la specifica del gioco oppure commentano il gioco mentre lo vivono? Sinceramente ho proprio visto un video di questo tipo e non lo capivo, perché io dicevo, ma almeno io quando avevo 14 anni mi divertivo a far vedi gol, che già pure a giocare. Te parli come me, no? Che dico, mio padre, ai tempi miei ci si divertiva con molto meno. E esatto. Voi farete lo stesso discorso. Sicuramente. Se tu pensi che poi sono la voce ufficiale della PlayStation, mi dispiace pure un po' che questo ci guadagna, io invece faccio solo la pubblicità. Vabbè, il gioco però... è solo l'inizio. Ecco, vabbè. No, però non presi i soldi dei 5J. Però sì, diciamo che anche per noi che siamo dentro a questo mondo, a volte ci sono alcune cose che non si capiscono, a cui diamo del valore, però. Nel senso che io non capisco il motivo per cui 3 milioni di persone seguono un ragazzino che può essere bravo, simpatico, quello che vuoi, che gioca alla PlayStation. Certo. Ma sicuramente, siccome è la categoria più vista su YouTube, non sono i comici, non sono gli ironici. Ah, è questa ironia. La categoria. No, è quelli che giocano alla PlayStation. Megoni, perché abbiamo chiamato lui? Sì, forse. Dopo chiamare quegli altri che ci vengono sì, meglio. Santa miseria, no, mi dispiace. Ho sbagliato. Vabbè, Gazzarini, perché erano di A G. Favij sta a F, però era quello prima. Vabbè, sì, vabbè. Vabbè, ma questi sono i gamer. Sono i gamers, sì, che giocano alla PlayStation e fanno anche 2-3 video al giorno di questo tipo. Però poi si trovano magari un po' più in difficoltà quando devono uscire da questo canale. Cioè, sì, perché una volta scarico i bambini sono cresciuti, che fai? Dove, tu invece capito? Stai cercando una strada, cercando, stai veicolandoti diversamente. Sì, io ho utilizzato, sto utilizzando, sempre nel mio piccolo, perché umilmente sì, parlando, chiaramente, i miei follower, cioè quello che ho creato comunque nel web, che è stata una roba all'inizio capitata per caso, ma poi costruita nel tempo tramite scelte precise di lavoro comunque e di scelte di contenuti in un qualcosa in cui voglio portare i miei numeri fuori. Cioè io dico, io ho fatto queste cose con un telefonino in mano, questi numeri. Certo, datemi una cinepresa, datemi qualcos'altro, vediamo che succede, capisci? Questo è quello che dico. No, no, ma è giusto, insomma, è come una bellissima donna che prima appare, viene presa per quanto è bella, però utilizza il tempo che la gente è ricoglionita a guadagnare bella per studiare, esatto. Così quando la gente si è stancata della sua bellezza, lei invece si ritrova una bravissima conduttrice, una brava attrice, esatto. Una brava non cantante. Tutte lo fanno, tra l'altro. No, quasi nessuna. Direi però... no. Spesso ci sono quelle che magari sì, utilizzano la bellezza, anziché studiare magari vanno allo stadio a cercare magari, non ah, so. Ah certo, un anche calciatore è un bel disponibile. Modo, però. Non sì, è... io pure all'inizio ho dato, insomma, il mio successo sulla mia bellezza, ho puntato su quello, per la gente non ridere, no, la gente, tua madre sicuramente lo sa lo che sa. Io... Lei ha cominciato a vedere la prima ditta e dire: Madonna, che figo quello. Quello che dice non mi interessa, ma è così bello. Infatti, che... lei non rideva mai. No, no, no, ti era guardava. Innamorata. Sì. Esatto, sì, sì, sì. È una sorta di transfer proprio. Esatto. C'è sì. Sta sindrome di Stendhal come di fronte a un quadro. Ma questo provoco, devi accettarlo. Se sì, basta. Sì, no, assolutamente. Sono poi qui per questo. Esatto, qui per, veicolare tua madre. Dico, l'ho toccato, sono vicino a lui. Che canzone ti viene in mente su di me, Sebastian? Ma guarda, visto c'è che sono qui per farti incazzare, cioè, sì, no, vai, in realtà, vai, no, fallo, però fallo. Sono qui e te ne farei una. Molto semplice, se poi la faccio col video, sì, già dai. Che ci siamo. Io devo venire lì vicino a te o vieni tu no, vicino non a me. Ti preoccupare, ci penso, però mi sa che devo rimanere qui, quindi vengo io vicino vieni a te. Vieni tu vicino a me, tanto c'è l'altro microfono. Ok, questo lo tolgo. Volevo. Togli la cuffia in questo momento. Questo adesso, non so se mi stanno sentendo, ma... ecco. Siamo noi, siamo solo noi quelli che non hanno età e comunque andrà... esatto. La reazione è esattamente questa di solito. Io mi fermo e poi succedono cose come questa. Esatto, ti ho soffiato in un occhio evitando di metterci della materia prima per rispetto esatto. Della... esatto. Guarda, sul mio profilo Instagram la prima parola che c'è scritta è bastardo dentro. Quindi... esatto, inside. Esatto. Bastardo inside. Insomma, sì. Ti è saltato in mente quando mi hai detto che stavi a un treno in ritardo, ti sei fatto sto video sì, e da lì hai capito che... Esatto, è stata una roba molto casuale, cioè non mi funzionava WhatsApp nel telefono, avevo un iPad con un'altra linea in cui funzionava internet e io devo dire ai miei amici ragazzi, sto tornando dall'allenamento, il treno c'ha 1:10 di ritardo, immaginate 1:10 di ritardo, no, dovevo uscire e dovevo avvertirli in qualche modo, allora mi sono fatto questo video così ironicamente e l'ho messo su Facebook taggando i miei amici. Certo. Questo video ha avuto... discrete visualizzazioni, non milioni, però io ero un ragazzo abbastanza sì. Sfigato, cioè nel senso facevo quei 15-16 like apposta. Buoni. Buoni. Era mamma, papà, zio, fratello. Esatto, sì. E quindi a volte non so, qualche arabo, qualche Mohammed, qua di là arrivavano e alla fine questo video ha fatto non so 300 like che per me erano tantissimi, è vero, è esponenziale. Cioè, tantissimi. E due giorni dopo vado in discoteca, un paio di ragazzette si avvicinano e mi fanno: però carino il video sul treno, vedo quale video? Quello lì, ah. Tanto tutto si riduce a quello. A quello, non c'è la niente ragazza, da fare. Le guerre scoppiano per colpa di una donna, perché per conquistare il cuore. Insomma, insomma, Elena ne sa qualcosa. Elena, parlo di Elena. Quale Elena? Elena, Eneide, Odissea, okay. E quella roba lì, capito? Tu l'hai studiato, tu hai fatto il liceo? Sì, quindi continuo il discorso di prima dicendo capito, che sì. Che quindi Iliade, Ilio, video. Elena di Troia, che non è una parolaccia, ma Troia era la città. Al Biblo. No, no, non, tu non lo è sai. All'Ollio. No, non è lì. No, ah, okay, non, okay. No, Lolli c'è un'altra quella. Situazione. No, okay. No, non è quell'Elena lì. E quindi questo video è piaciuto, diciamo, no? E da lì ho detto: ma però quante belle cose accadono con questi video, perché non continuare? Esatto. E poi sono nate tante cose pazzesche. Io, prima che mi rispondi, perché manca un minuto, prima di affrontare l'ultimo blocco insieme e collegarci anche con Capuano per tutti i convocati, perché io sto tranquillo, ho giocato ieri, per cui oggi mai una gioia, non mi scalfirà. Tu di che squadra sei, Fiorentina? Io ero... Non segui il calcio? Allora, non seguo più il calcio, ero... Però poi... La Fiorentina? No, no. Interista a Firenze. Ho voluto dirlo abbastanza. Un fiorentino, perché... ma non sei della Juve, già questo ti tranquillizza, okay, perché insomma a Firenze mia, sei sì, della sì. Juve, rischiavi. Però poi ho smesso perché non... diciamo non ho più trovato lo tanta stimolo. Attrazione, sì. Beh, beato te che hai smesso dell'Inter. Pensi io che dovrei dire, avrei smesso da anni, invece no. Bisogna perché, portarle... Me sono laziale. Ah, ok, bene. No, ma mio, sei se può dire. Sei sì, sì, certo, una volta che scegli di portare avanti la tua croce. Vabbè, ognuno è contento, insomma. Però no, ma quest'anno mi sta... C'è chi si accontenta di poco, diciamo. Assolutamente chi, sì, ma noi insomma abbiamo vissuto momenti di gioia. Adesso devo dire che il bravo... Ma non dobbiamo parlare di calcio, la vuoi smettere? Io invece nel prossimo blocco voglio parlare di tua... Possiamo telefonare a tua madre? Possiamo telefonare, se... sì, proviamo. Sì, io voglio parlare con tua madre. Parlavo mia madre, va bene. Tanto proviamo. Sei abituata a scuola, non è stato mai il giorno che sei andato mai da sola. Non sempre detto domani vieni accompagnato dai genitori o sbaglio. Esatto, sì, un giorno sì, un giorno no. Sei abituata a tutto questo. Bene, proviamoci. Allora, ha cambiato faccia. Sì, tra pochissimo, ultimo momento insieme al nostro amico Sebastian Gazzarrini. Tenteremo di parlare con la mamma per capire cosa ne pensa mamma, di questo figlio. Prendi il telefono se no. Ci stai ascoltando. Come no. Se ci stai ascoltando. No, ma che segua ci c'hai? Manco tua madre ti segue e sei venuto qui da me. Ma è possibile? Ma io volevo ampliare il programma, vedere il podcast che cresce come sempre e tu non mi dai questo. Mamma, guarda la radio e dillo anche alla zia, insomma, allo esatto. Zio e a tutti. Megoni Navarro, autori per voi Voice Anatomy, finisce qui. A tra poco con Voice Anatomy, signori. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Voice Anatomy. Eccoci, stiamo tentando di chiamare la mamma di Sebastian per capire cosa ne pensa della vita di quest'uomo, che lui ci potrà raccontare quello che vuole, ma è staccato, forse. Beh, ha voluto chiudere con... Se volete posso dirvi io cosa ne penso. Beh, non è la stessa cosa. Non è la... ok. A Rachele, che ci ha raggiunto la nostra buonasera. Capo redattrice, buonasera, lo capirete dall'accento di Lecce o... Di Lecce. Di Lecce. Pensavo vicino Siena, vicino Prato, no, ok. No, no, lei la veicoliamo perché lei è grandissima, è stata giovane, per cui è... molto attenta al fenomeno giovanile e alle serie, sa tutto, per cui tu segui, sei una youtuber anche tu? Non sono assolutamente no, una segui, youtuber, però seguaci, seguo. I follower, sei un follower, segui. Io non so se lo posso dire, seguimi. Ma il mio preferito si chiama Claudio Di Biagio. Ok. Beh, Claudio, che saluto, sì. Perché Claudio è un grande, davvero, posso sì, dirlo sì, anch'io sì, che sì. Gli ho fatto la voce al trailer di questo nuovo film in stop motion, che è bellissimo, l'ha presentato a Lucca adesso, al Comics. Sì. Ecco, Claudio è un altro che come te... ha cominciato, adesso è più grande e ha veicolato, grazie a questi follower eccetera, ha sterzato verso fuori dal web. Sì, fuori dal web è quello che voleva fare, insomma. Sì, io non ci conosciamo di persona, ho seguito il suo percorso. Sarà ospite prestissimo Claudio, anche perché ha studiato come per diventare regista. Sì, lui... bravissimo, devo sì. Dire che questo gruppo di persone hanno creato questo film che devono ancora produrre perché costerà l'ira di Dio, perché in stop motion vuol dire che a passo uno, un passo per volta con queste figure costruite. C'è un film bellissimo che è candidato anche come miglior cartoon, era candidato anche all'Oscar, che è Anomalisa, film dovrebbe essere anche vita di meno di 18 anni, ma non perché sia sporco o cosa, ma è di un'intensità pazzesca, di una metafora. E Claudio ha fatto questo percorso, come stavi dicendo tu, adesso visto questo sto piegando e infatti sì. Lavori a X Factor, lavori alle Iene, insomma. Certo, io in maniera più ignorante forse, perché lui mi sembra stia facendo un percorso molto più solido comunque da regista, pure più grande, insomma, certo. C'è tutto il tempo del mondo, amico mio. Speriamo, dai, vediamo un po' cosa succede, dipende da te, tu in questo momento devi utilizzarlo anche per studiare, per assolutamente non solo sì. basarti sul tuo istinto, che è fondamentale e funzionale, ma devi rendere professionale questo istinto senza perdere la naturalezza e la spontaneità che hai, perché nessuno deve dirti niente. Tu sei riuscito a importi col tuo modo, adesso devi rendere professionale questo modo. Sì, cioè, dei consigli. Uno è simpatico all'inizio, io ero simpatico ma non ero un attore. Ho dovuto rendere quasi simpatia attoriale e renderla però naturale anche quando sei costruito. Lo farò, assolutamente seguirò questi consigli, sì, mi sembrano ottimi. Questo è da fratello maggiore, non da papà. Okay. Potrei essere solo fratello maggiore tuo. Sicuramente. Quanti anni ha papà? Una 60, poco meno di 60, dai, poco meno di 60. Cioè io come me, poco meno di 60. Sì, dai, stavo per meglio. Dire poco meno di 40, però cioè, questo per te pure, Voice Anatomy finisce qui. Per me, ok. Che... Insomma, ragazzi, sì, Claudio è bravo, sicuramente sì. Forse più vicino. Più tra vicino l'altro, a te. Lui ha fatto anche Freaks, che sì. era una serie su YouTube che era fatta veramente bene. Ti piaceva molto? Sì, sì, sì. Mauro Meconi non è sempre d'accordo con tutto, scappa via manifestando il proprio disappunto. Mi ricordo che invece parlava di questa serie molto contento. Insomma, sì, no? Non lo so, è un po'. Lui parla solo di Romanzo Criminale, che è il più venduto. Sì, vabbè. Lui si dimentica di essere autore, regista, sì. E diventa lui Fiero Locchio. Il sì. tutto, però per io, tutto. Per quanto riguarda Favi J, dovrei sì. dire una cosa, secondo me, perché. Io non guardo, non gioco alla PlayStation, insomma, però lui ha risolto il chiaro meccanismo di domanda e offerta, perché i bambini avevano bisogno di scoprire quali erano i tasti rapidi, i trucchi di questi videogiochi. Io facevo la tata per un bambino e lui venera Favi J, certo. Perché lui non si limita a giocare, spiega tutti i trucchi di tutti e i vari tu giochi. Tu hai rubato lo stipendio facendo giocare a sto ragazzino no, per 4 ore. Non è vero. Lei guardava, no, però hai capito delle cose, insomma. No, anzi, io mi facevo odiare staccando la spina. Il racket di Favi J sulle tate, probabilmente esatto. La percentuale, forse, non so, potrebbe esserci no, però ha ragione, deve dire, ha veicolato all'inizio grazie a questi trucchetti. Sì, sì, è stata un'opera economicamente brillante, perché mancava certo. qualcuno che lo facesse in Italia. Cioè, perché all'estero lo fanno. Sì, penso che sia stata una mossa più casuale, diciamo. Però ha assolutamente ragione in tutto questo. Eh sì, ha funzionato in qualche modo. Non ti chiamerò per fare la tata ad Alessandro, sai? Perché no. Se no c'ha 2 anni, quello già mi comincia a fare i trucchi su FIFA. Sei rovinata FIFA. La carriera, ti sei rovinata. Vabbè, fatto. Ti sei laureata nel frattempo? Sì, sono laureata. 100 su 110. 100 come la ruota della fortuna. No, quella è un'altra. No, 100 era che il prezzo è giusto. Era sì, esatto. 100, me l'hanno detto. 100 come i giorni di scuola fatti nei miei ultimi anni, no? Esatto. Tu 100 sì. sono tipo di sì. sommati in 5 anni. Ci colleghiamo insieme a te, Sebastian. E Rachele, il nostro amico Capuano, da tutti i convocati. La trasmissione di gran successo che seguirà, ovviamente, la trasmissione di maggior successo che voi suonate, poi ci sarà questa trasmissioncina fatta da questi ragazzi. Capuano! Eccomi qua! Bello, stentoreo. Hai stentoreo. Visto? Tu sei un follower di YouTube? Segui, fai... No. Poco, guarda, è una delle poche cose che seguo con parsimonia, tra i social. Tra i social non sei un social tu? No, sono molto social, ma meno su YouTube. Ho capito, sei più facebookiano. Facebook, va bene. Twitter, tutto è quello come che lui. È come Sebastian. Senti, i risultati, visto che il mio è andato, insomma, in qualche modo. Sì, tu è andato 1-1 con il regalo di Reina. Vabbè, insomma, tanto sempre, l'hai vista. Sempre devi commentare gratuitamente una cosa che non ti ha chiesto nessuno. E il risultato è consolidato, passa avanti. Sì, il risultato è consolidato. Dai, andiamo avanti. Siamo negli ultimi istanti di partita. La Juventus sta vincendo con sofferenza a Verona contro il Chievo, 2-1. Vedi, però vinci. Tutto nel secondo tempo, gol di Mandzukic, poi pareggio di Pellissier su calcio di rigore e poi c'è stata la perla di Pjanic su calcio di punizione a un quarto Roma. D'ora dalla fine, molto bello, primo gol su punizione da quando ecco la maglia della Juventus, 2-1 esterno anche del Milan a Palermo, Milan che era passato in vantaggio con Suso dopo un quarto d'ora, poi ha smesso letteralmente di giocare, ha preso il pareggio a 20 minuti dalla fine da Nestorovski, da lì in poi è tornato a scatenarsi, Posavec assolutamente straordinario per 3 volte, poi gol di tacco di Lapadula, primo gol in Serie A per la Padula. Sono contento per quel ragazzo che si sblocca così. Mi piace la sua avventura. Poi? E poi ci sono Genoa e Udinese sull'1-1, Teroe o Campos, anche qui siamo nelle battute finali, e l'Atalanta che sta vincendo 3-0 sul campo del Sassuolo, Gomez, Caldara e Conti, tutto nel primo tempo, Sassuolo che è letteralmente piantato sulle gambe. Ma del resto il doppio impegno con la Coppa, insomma, si fa sentire, anche perché il Sassuolo ha tantissime mancanze, ha tanti giocatori assenti, e questa è una situazione che si sta facendo sentire. La partita della Juventus è finita in questo momento, dunque Chievo 1, Juventus 2. E resta lassù. Se vuoi, se vuoi ti do anche un aggiornamento sull'allenatore dell'Inter. Ah, che è successo? Dimmi. Niente. Ma sei veramente un fenomeno. E come, con chi parlavo bene di te ieri, Capua? No, con nessuno. È uguale. Sei, no, c'è un comunicato e insomma i cinesi hanno detto che entro 48 ore faranno sapere qualcosa. In realtà. Come faranno? Entro Natale. Te fanno Pioli, che poi Pioli sembra Pioli, invece Pioli con la L. No, la novità vera è che però Pioli è tornato assolutamente in vantaggio su Marcelino, e quindi in realtà l'Inter sta allenatore andando. Che si chiama Marcellino Panevino. Ma dai, ma bisogna Stefano avere rispetto Pioli, di un allenatore che ha fatto grandissime cose. Come con no, Villarreal. Non me ne ricordo uno, però no, è colpa mia, sono io ignorante. Però Stefano Pioli lo adoro per tanti motivi, a parte della Lazio, ma non per quello, che è una gran brava persona. Sono finite tutte intanto le partite. Anche tu. Senti, Capuano, ti abbraccio, buona trasmissione. Grazie mille, siamo qui al casting noi. Domenica prossima. Se hai qualcuno da suggerire, mandacelo. No, ma io so dove mandare te. Un bacio, Capuano. Alla prossima. Ciao, amico mio, ciao. Bene, allora, grazie ancora a tutti qui di Voce Anatomi. Grazie Alessandro, grazie Alessia Navarro, Mauro Meconi, sempre puntuali come autori straordinari, non saprei vivere senza. Grazie a Milano, a tutti i loro tecnici e quelli che ci seguono. Grazie Rachele ad essere così puntuale, non solo come caporedattrice, ma anche come persona pensante e parlante. Sebastian, grazie, in bocca al lupo per la tua vita. Voglio dire, quanto me veicoli sta settimana di podcast per quanto riguarda anche il nostro sito di Voice Anatomy, cliccatelo. Assolutamente sì. Gazzardini, se no parlo con il grande delle Iene e te faccio finire quell'avventura. Bene. No, non mi ascolta così. Scaricate tutti il podcast di Voice Anatomy. A domenica prossima, grazie. Ciao.